Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli, eccoci qua dunque a completare questo percorso tra nel nostro palinsesto, nello spazio europeo. Ovviamente oggi c'è tantissima materia, ma abbiamo deciso di non parlare solamente della crisi greca, ci sono anche altri temi d'attualità, temi forti, in particolare una polemica che forse avrete visto apparire nel corso del fine settimana sui quotidiani italiani. Il tema qual è? Il formaggio senza latte. Alcuni giorni fa, infatti, la Commissione europea avrebbe ribadito all'Italia la richiesta di consentire la produzione di formaggi senza latte fresco. Avete capito bene, formaggi senza latte. Cosa vuol dire? Formaggi senza latte fresco vuol dire formaggi con latte in polvere, latte concentrati, yogurt, insomma, altre forme che non siano precisamente quella che ci attendiamo, cioè del latte freddo, fresco. Allora, noi ne abbiamo parlato con il commissario europeo Hogan, che risponde ad alcune nostre domande, cominciando proprio da una richiesta di chiarimento su questo tema. Sentiamolo. Confermo che in effetti una lettera è stata spedita alle autorità italiane alla fine di maggio sulla base di una protesta ricevuta dai produttori italiani di formaggi che si considerano penalizzati dalla legge italiana. Ora stiamo verificando questa protesta, ci sono delle procedure da seguire per casi del genere e in questo momento stiamo appunto seguendo queste procedure. Stiamo aspettando delle risposte dalle autorità italiane in merito a questo e dunque c'è un dialogo aperto, ma vorrei sottolineare che la politica europea sulla qualità rappresenta un successo per l'Italia e per l'Europa. Per esempio, l'Italia ha il più alto numero di prodotti contrassegnati con indicazione geografica di tutta l'Unione: 274 prodotti alimentari, 603 vini, 38 superalcolici. E gli studi hanno dimostrato che la certificazione di indicazione geografica fa aumentare il valore sul mercato dei prodotti che la ottengono e contribuisce ad un aumento dei ricavi dei produttori. Quindi si tratta di proteggere la proprietà intellettuale nell'economia rurale e assicurare che ci sia crescita e lavoro nelle aree rurali. Io sto difendendo e promuovendo la certificazione di indicazione geografica italiana in tutti i negoziati commerciali globali che stiamo seguendo al momento, inclusi quelli con il Giappone, il Vietnam, gli Stati Uniti, nel caso in cui si riesca a raggiungere un accordo ragionevole sul TTIP. Quindi penso che si arriverà presto ad una conclusione tenendo conto di questa protesta avanzata dai produttori italiani di formaggi e la Commissione lavorerà per risolvere tutti i problemi e le difficoltà in questo senso. Commissioner Hogan, you just quoted TTIP. TTIP crea delle preoccupazioni forti da parte dei produttori sul fronte della qualità alimentare in Italia e in Europa, che sappiamo essere a un livello molto alto. L'Unione Europea non deve avere alcuna paura nel promuovere e sostenere le proprie esportazioni in qualsiasi parte del mondo, inclusi gli Stati Uniti. E ho ricordato in più occasioni che non ci sarà alcuna riduzione per quanto riguarda gli standard di qualità degli alimenti o la politica dei trattamenti dei nostri agricoltori in caso di un accordo con gli Stati Uniti. Quindi voglio tranquillizzare i produttori agricoli e l'industria alimentare e soprattutto i consumatori che gli standard europei sulla qualità del cibo saranno rispettati. Finally, Commissioner Hogan, e ovviamente poi c'è la questione della Grecia di cui abbiamo parlato a lungo. Qual è la vostra posizione in proposito? Quali le preoccupazioni? È molto deludente che si sia arrivati al punto che la Grecia si trovi in gravi difficoltà con le istituzioni finanziarie. La Commissione ha tentato tutto ciò che era in suo potere per cercare di trovare un accordo tra le autorità greche e i creditori. Sfortunatamente non siamo nelle condizioni perché questo accordo ci sia e il governo greco ha deciso per il referendum, rimettendo l'ultimo accordo raggiunto nelle mani dei propri cittadini. Dunque ora non possiamo che attendere l'esito di questo referendum e la Commissione continuerà ad essere disponibile se necessario per aiutare i greci in questa difficilissima situazione. Questa è la cosa più importante perché vogliamo garantire che continuino ad avere la stessa assistenza dal punto di vista finanziario alla quale hanno diritto, affinché possano portare avanti la loro quotidianità. Grazie al commissario europeo all'agricoltura Hogan, irlandese, per essere rimasto con noi. È tutto, adesso tempo di parlare di calcio, naturalmente tutti convocati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.